ritengo che la solidarietà intorno a Mauro debba essere totale e assoluta, perché con il suo allontanamento da anno zero è stata colpita la libertà di espressione, di cui la satira è una componente essenziale. È in gioco appunto in questo momento in Italia qualche cosa di grande, perché la libertà viene colpita da più parti, e però c'è da tenere presente che la libertà, in quanto principio fondativo della democrazia, è qualcosa che non si taglia a fette come il prosciutto, è un principio indivisibile, e perciò sarebbe assolutamente impensabile di poter difendere la libertà di espressione, la libertà di satira, e nello stesso tempo accettare la libertà di licenziamento che colpisce gli operai, i lavoratori dipendenti, i precari e gran parte di coloro che sono addetti alla ricerca e all'amministrazione pubblica. Proprio per questa ragione è necessario in questo momento far crescere intorno a Mauro un movimento di solidarietà che tenga uniti i lavoratori, operai, intellettuali, operatori della informazione e della comunicazione, per mettere in crisi le azioni che sta mettendo in atto il Cavaliere, per mettere in mora, diciamo così, la sua attività e metterlo in condizione di non nuocere, insieme ai suoi, chiamiamoli per il loro nome, servi e lacchè a stipendio pieno, che senza vergogna difendono e sostengono le sue scelte.